Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ciao caro Oscar, come va? Eccoci caro Alessandro, e come va? San Martino, sai come dice la filastrocca? San Martino, la sentenza nel taschino. E De Luca pensa se è comprato la sentenza. No, mannaggia, siamo garantisti, però l'accusa è questa. No, l'accusa solo a leggerla fa sorridere. Concorso in concussione per induzione. Io cioè? Sfido chiunque dei nostri ascoltatori, cioè? E questo è il concorso in concussione per induzione. In realtà, allora, sarebbe successo questo, vediamo se l'ho capito bene. Il capo della segreteria di De Luca, Masturzi, avrebbe contattato sarebbe stato contattato dal marito della giudice che ha sospeso la decadenza di De Luca. Esatto. Perché questo marito, avvocato Manna, dice: se mi date in cambio qualcosa in regione, posto in regione, io vedo di vedere cosa fare con mia moglie, che deve decidere sul presidente. Questo è lo scenario. Allora, quello che volevo aggiungere è che il mattino, che tu Milano non hai, perché io stamattina sono a Roma, aggiungi dei particolari. Cioè, i particolari sarebbero che quando arriva poi mandata dalla procura di Roma per competenza, perché c'è un magistrato di Napoli, a fare le perquisizioni a casa, il Masturzi non rivelerebbe a De Luca anzi non gliela rivelerebbe neanche quando dice me ne vado, tant'è che insomma avviene tutto all'insaputa di De Luca, scrive il mattino. Però sì, il mattino aggiunge che quando fanno la perquisizione a casa del Masturzi trovano la polizia trova sostanze per uso personale, quindi il Masturzi si troverà anche questa cosa in più che certo non aggiunge, per così dire, un particolare su cui i giornali non metteranno il biscottino, per così dire. Tra l'altro Masturzi, vogliamo ricordare, è vice segretario del PD, cioè c'è un problema del Partito Democratico. Segretario Matteo Renzi è in campagna a questo punto? Mi pare di sì. E comunque sentiremo la conferenza stampa, che pare che ci sia stamattina, di De Luca, il quale dice: non sapevo nulla, non mi hanno detto nulla. Sì. È tutto insaputo. E ha detto anche: dedicherò, questo almeno racconta il Corriere della Sera, dedicherò 15 secondi a questa vicenda. Credo che questa volta la sua sicurezza forse si incrina. Comunque la vicenda di De Luca è certamente la notizia politica del giorno, nuovamente De Luca. Però c'è tanto altro, c'è tante altre belle notizie, sempre un elenco, caro come Oscar. Come no. Pensa a questi 600 clandestini entrati in Italia come clown e circensi, perché approfittavano di una norma che consente la deroga ai tetti, per così dire, la legge di immigrazione, proprio per i lavoratori circensi. E allora chi si occupa di questo nell'associazione dei circhi si mette d'accordo con un funzionario della regione Sicilia. Vedi a cosa serve l'autonomia speciale siciliana. Viva anche i siciliani che dicono che bisogna superarla, perché è uno scudo di schifezza. Tra cui questo fatto: 600 clandestini, a cui naturalmente venivano tirati fuori di tasca altri soldi, oltre a quelli del viaggio sulla loro carne, oltre ai malacarne che ne fanno il traffico nel Mediterraneo, ci sono quelli che con l'autonomia siciliana e con l'associazione dei circhi hanno arrestato 41 persone, sai, a Palermo. Hanno fatto un'indagine. Questo per dirtene. Ma non è finita. L'ANAS, allora, parla la dama nera, così chiamata, a Crogliano, che avrebbe preso tangenti. Dice: ho preso tangenti. Ma c'è un altro dirigente, Oreste De Grossi, che dice: sì, ho preso 65.000 euro con i quali mi sono presi francobolli, di cui faccio collezione, i trenini. Fa collezione di trenini, poverino, coi soldi nostri. Ebbene, sviluppi anche su Mafia Capitale, perché tutte le cronache romane dei giornali qui sono con grandi titoli su questi 60, chi dice 62 mila euro, chi dice 70 mila euro, più dicono 70 mila euro, che sarebbero state ricostruite dalla polizia giudiziaria sui conti di Alemanno, triangolati dalla fondazione che fa capo Alemanno, però soldi di Buzzi, altri soldi di Buzzi, quindi sui conti personali di Alemanno. E naturalmente questa cosa anche non aiuta, per così dire. È la lista della spesa, caro Oscar, che dobbiamo fare? È la lista della spesa. Poi dice, perché non mandano via i commissari alla spending review? Ci sarà qualche, ci sarà qualche connessione? Motivo. Tra l'altro, onore alla stampa, che tra tutti i giornali è quello che prende più sul serio la vicenda di Perotti. Oggi pagina 2-3, bellissimo articolo che ha scritto Mingardi. Però insomma, altri giornali non ci hanno fatto quasi caso. Fatto che Perotti però io, caro Oscar, ho letto in rassegna stampa questa vicenda che avviene a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Ecco. Io pensavo di scatenarti su questo, dove in base a un regio decreto, se non pagate la multa vi pignorano un quinto dello stipendio, ma in multa per infrazione della strada, del codice della strada. Ma perché lo scopri io? Cioè, ma ho capito, ma lo pignoramento dello stipendio. Ma che ci possano pignorare per qualunque tipo di incasso mancato delle amministrazioni pubbliche, oimè, è la legge del taglione dello Stato che vige in Italia. Quindi il regio io decreto. Sono finalmente felice. Ma c'è il re, quindi in Italia. Se c'è il regio decreto, c'è il re. No, ma il potere attuale repubblicano non ha, devo dire, una dignità di gran lunga superiore ai Savoia che scappavano. Questo devo dire la verità. Però entrambi avevano la pretesa di incassare, sia i Savoia che la Repubblica. Ecco, come vedi. Quindi il problema è del pignoramento. Hai ragione tu a stupirti, però funziona così questo cavolo di Stato, col re e con la Repubblica. Non è cambiato niente da questo punto di vista. Comunque. Per fortuna, ieri però il Premier ha detto al sottosegretario Zanetti: niente sanatoria per l'Agenzia delle Entrate. Quindi 1-1 palla al centro. 1-1 palla al centro. Questa lotta tra il contribuente e i dirigenti che vogliono la sanatoria non l'avranno. Comunque la io sono un po' stupito di questa cosa di Cinisello, perché guarda che ci sono, pare, datori di lavoro che hanno risolto i rapporti di lavoro con i loro dipendenti quando hanno scoperto che ha preso una multa, magari per un qualcosa di grave, un'infrazione. Ma è una cosa, cioè, anche che incide sulla privacy delle persone, insomma. Che incide su tutto quello che vuoi, ma la privacy non è... Alessandro, lo Stato te l'ha levata dal punto di vista dei pagamenti la privacy. Eccola, non c'hai più diritto. Ma no, tu ne scopri solo le conseguenze negative. Non è che ci ha levato la privacy. È verissimo. Ogni tuo micro pagamento bancario allo Stato è noto, come sai. Cioè, quindi non ti puoi sottrarre. Sottrarre no, se uno ha preso una multa, questo è giusto che uno la paghi. Quindi perché non dovrebbe essere, ragiona lo Stato, anche il pignoramento fino al quinto dello stipendio? Così succede. E infatti molti ascoltatori in rassegna hanno detto: bisognerebbe proprio fare così. È giusto quello che fa da Cinisello Balsamo. Non lo so. Di fatto, sai, quando si imbocca la strada del dire che lo Stato ha sempre ragione, si finisce con un Premier che non vuole più sentire obiezioni, con qualcuno che si affaccia da un balcone e con lo Stato che incassa. C'è stato un climax clamoroso qui alle 8:26. No, ma sono fatti storici italiani. Non lo so se questo è il pensiero del nostro primo ospite che salutiamo, caro Oscar. Si tratta di Stefano Fassino. Fassina, deputato di Sinistra Italiana, buongiorno Fassina. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi, grazie. Allora Fassina, che vuol fare lei, se altre persone a sinistra, una cosa antagonista a Renzi, ce la spiega in poche parole? No, noi non vogliamo fare antagonismo a nessuno, vorremmo provare a ricostruire innanzitutto la rappresentanza dell'universo dei lavori, che sono... interessi oggi largamente sottorappresentati e assenti dal dibattito politico oltre che dell'agenda della politica. Quindi vorremmo mettere in campo, come abbiamo proposto sabato scorso, un programma in grado davvero di riqualificare e dare sostanza solida alla ripresa italiana, a partire appunto dalla qualità del lavoro. Però Fassina, mi scusi, oggi, ne parlavamo prima con Oscar Giannino, De Magistris, sindaco di Napoli, fa un'intervista al Fatto Quotidiano dicendo: o nomi nuovi oppure con Fassina no. Quindi rinnovate davvero, rinnovate a parole o siete la continuazione della minoranza di sinistra, visto che viene definita così? Ma guardi, sabato mattina se si riguarda la platea e agli interventi che vi sono stati per appunto avviare Sinistra Italiana, si può facilmente riconoscere che vi sono energie fresche, che vi sono uomini e donne che vogliono aprire una fase di discontinuità. E la sollecitazione di Dona Gistris va esattamente nella direzione che vogliamo praticare, e sarà visibile appunto a partire anche dalle elezioni amministrative, dove vi saranno candidature che esprimono appunto discontinuità, esprimono competenza, freschezza e capacità di persone nuove, affrontare le sfide che vi sono in ogni città. Fassina, io cambio città, ma non cambio argomento, perché sulle cronache romane dei quotidiani di oggi, Repubblica, Corriere eccetera, hanno in grande evidenza la notizia: Renzi e il PD sospende la ricerca del candidato. Cioè, insomma, il PD ha delle difficoltà serie nell'individuare qual è la formula e quale candidato per uscirsene dai guai a Roma. Allora, la domanda secca che la faccio, non è che voi dovreste avere l'interesse ad accelerare, a far capire proprio a Roma, che è un po' anche la grande città in cui lei è più noto, più apprezzato eccetera, che tipo di cosa mettere in piedi, che tipo di candidati, che tipi di alleanze, insomma non è proprio su Roma, a città Campidoglio, che si gioca la battaglia, lei e la formazione che è nata questo fine settimana? Certo, Roma è un passaggio importante, ci sono anche altre città molto rilevanti, da Torino a Milano a Napoli appunto. Su Roma stiamo lavorando per un programma. Credo che a breve saremo nelle condizioni, dopo un passaggio che coinvolge oltre alle forze politiche della sinistra, che coinvolge tante associazioni radicate nei quartieri, movimenti civici che nella città di Sola, saremo nelle condizioni di esprimere anche una candidatura. Ma non c'è già, perché guardi che qua io, Oscar, abbiamo un sospetto che potrebbe esserci già la candidatura, cioè lei. No, ora non c'è la candidatura, ora c'è, si candida lei. Ora stiamo lavorando appunto al programma. Credo che ieri l'ex ministro Andrea Riccardi abbia fatto una sollecitazione interessante quando ha scritto che è necessaria una costituente per Roma, non per fare una mucchiata e predisporre il terreno alla versione romana del Partito della Nazione. No, anzi, quell'appello, io non so come la pensa lei, chiedo sì o no, perché la mia interpretazione giornalistica è che in realtà Riccardi, e con quello che significa ovviamente il mondo come tale, Sant'Egidio e così via, nella cattolicità romana, è come se dicesse no al candidato a tavolino di Renzi. Sbaglio, Fassina? Anch'io ho avuto una lettura positiva del commento, della proposta di Riccardi. Parlando di costituente, Riccardi individua la dimensione giusta dei problemi. Roma è in una fase straordinaria, ha problemi straordinari. Ma chi pensa che si possa risolvere individuando una figura che magari possa funzionare sul piano mediatico e anche sul piano elettorale, ma poi non ha un programma, non ha una squadra, ci troveremo a breve nella stessa situazione di impasse nella quale si è trovato poi il sindaco Marino, che pure era stato eletto con una larghissima maggioranza, ma non aveva dietro una classe dirigente, non aveva dietro un programma adeguato per la città, non aveva dietro un partito che convintamente lo potesse sostenere le battaglie anche molto complicate, molto difficili che hanno fatto. Quindi insomma dovrete dialogare anche con quel pezzo di mondo vicino al Papa, che insomma parla con un linguaggio tagliente dei partiti e della politica. Senta, l'ha visto sulla pagina editoriale Corriere della Sera oggi Antonio Macaluso, che gli dedica un'intera colonna dicendo che lei ha la sindrome dell'escluso, tutte le volte la mettono al governo e lei sbatte la porta, con Renzi e poi ci litiga, il PD e poi dice ma non va bene, è così? Ma guardi, più che dell'escluso, di uno che si esclude quando, quando non riesce a trovare la coerenza tra le promesse e tra gli impegni elettorali che prende e poi le scelte di governo. La ragione per cui sono andato via dal governo è perché era evidente la contraddizione tra il programma che a mio avviso gli elettori ci avevano affidato nel voto di febbraio 2013 e la segreteria di Renzi, e poi questa contraddizione è diventata così insostenibile che per me era impossibile andare avanti anche come parlamentare che votava provvedimenti radicalmente contraddittori al mandato elettorale. E quindi da questo punto di vista rivendico una coerenza di comportamento che come costo ha l'esclusione dal partito che oggi è il partito più importante, quello che occupa la maggior parte degli spazi di potere, e ha come diciamo costo l'esclusione da una posizione di una qualche rilevanza che le costerà anche, sì. Ma non, vabbè, non ce lo dice se farà il candidato, se c'è, no, perché c'è. Noi abbiamo pensato, siccome il Papa ieri è citato Don Camillo, lei come Don Peppone a Roma, come Peppone sarebbe. Cioè, ma non lo farebbe, le piacerebbe candidarsi o no? Perché lei ha detto appoggeremmo anche che in caso di ballottaggio non è escluso di poter appoggiare uno del Movimento 5 Stelle. Ma no, perché non si candida direttamente, voglio dire? Lei, ma guardi, ripeto, c'è un lavoro preliminare da fare, non è una decisione unilaterale, individuale, c'è una rete di uomini e donne impegnati a Roma che vanno ascoltati. Io credo che il metodo sia importante. Guardate, l'esperienza romana si è chiusa in modo traumatico, il Partito Democratico non ha avuto neanche il senso di responsabilità minimo che si deve alla città, ha precluso un dibattito in consiglio comunale. Dice, quel metodo non va bene, bisogna cambiare il metodo. Sì, l'amministrazione Marino è stata chiusa davanti a un notaio. Credo che la politica, sì, la classe dirigente della politica non avrebbe alcuna credibilità se non partisse attraverso il coinvolgimento di chi a Roma opera, di chi a Roma lavora per la città. Roma ha gli anticorpi, contrariamente a quello che dice il presidente Cantone. Roma ha gli anticorpi, il problema è che oggi questi anticorpi sono isolati, sono frammentati, non sono in sinergia con la classe dirigente, che quindi diventa autoreferenziale e corre i rischi che vediamo anche con Mafia Capitale. Vabbè, noi la salutiamo e staremo a vedere. È passato il Fassina chi, cioè quella fase lì è passata, insomma, è archiviata. No? Direi di no, anche perché voglio dire, Fassina chi di Renzi, no, ma anche personalmente. Quello con Renzi è difficile dirlo. È difficile. Davvero non è stato per orgoglio che ho scelto di lasciare il posto di vice ministro, ma ripeto, perché le contraddizioni programmatiche tra il mandato ricevuto e il programma di Renzi erano insostenibili. Oscar, qui insomma vedremo insomma che cosa vedremo, appunto, se Papa cita Don Camillo, vedremo se Fassina è il peppone giusto. Vedremo. Intanto la ringraziamo Stefano Fassina per essere stato con noi, grazie ovviamente. Oscar, dobbiamo andare in pubblicità, ma dopo avremo il rettore del Politecnico di Milano, Capire meglio se davvero, insomma, voglio dire, queste eccellenze accademiche milanesi si sentono messe da parte oppure no per il dopo Expo. Per il dopo Expo, tra poco, state con noi. Eccoci, caro Oscar, ci sei? Eccoci qua. Eccoci. Allora, vogliamo dare spazio ai due ascoltatori, Alessandro da Como. Buongiorno Alessandro, che ci vuole dire? Buongiorno, mi sentite? Benissimo. Sì, allora io volevo, di solito sono d'accordo con voi, però oggi non sono d'accordo sulla questione della pignorabilità dello stipendio per chi non paga le tasse. Abbiate pazienza, ma cioè le tasse, scusi, le multe. Le multe prima di arrivare al pignoramento ci sono tanti avvisi, eccetera. Infatti eccetera. Il comandante dei vigili dice prima proviamo 3 volte a riscuoterle, poi come estrema razza arriviamo a questo. Sapete qual è il problema dell'Italia? Che noi non siamo credibili e tutti pensano di non poter pagare le tasse, non pagare le multe e quant'altro. Il problema dell'Italia non è che si arriva al pignoramento dello stipendio se dopo X tentativi non paghi la multa, magari che se ci sono le amministrazioni pubbliche che non ti pagano i lavori o che le pagano a 300 giorni, tu come azienda o piccola impresa vai in crisi, per non licenziare non paghi le tasse e contributi, arriva in Italia, ti pignora e ti fa fallire indirettamente. Però questa, non so, Oscar, questa mi sembra un'altra storia, no? No, cioè, semplicemente ho capito che Alessandro dice, lui è d'accordo sulla pignorabilità, perché dice altrimenti i furbi la fanno franca, però dice dall'altra parte, lo Stato però si permette di decidere lui se pagare o meno, cioè lo Stato Alessandro lo apprezzo perché è un cittadino retto e non dice no alla pignorabilità, però fa anche notare che lo Stato decide poi di non pagarti lui. Sono bene. Però la vicenda questa è diversa, cioè un divieto di sosta, un divieto di sosta non è i fornitori dello Stato che non vengono pagati per 300 giorni. Che è nel una senso cosa che è più grave lo Stato che non paga. Eppure, come vedi, noi siamo qui a dire che è anche giusto per chi non paga le multe la pignorabilità. E quindi, come vedi, noi la nostra parte per la legalità la facciamo. Sì. Vediamo se Stato Giuseppe che... da Roma, poi andiamo al nostro secondo ospite di oggi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Guardi, io parlo un po', diciamo, per la pignorabilità dello stipendio, sì. Ho un po' di conflitto di interessi perché lavoro per un'agenzia fiscale. Oscar si è messo sull'attenti. Oscar si è messo sull'attenti, dica. Oscar inizio si è a tremare sull'attenti. Allora. Però sono di quella piccola, non di quella grande. Vabbè. Sempre agenzia fiscale si tratta. Vabbè, dica. No. In realtà volevo parlare del fatto di De Luca, sì. E non so se solo a me viene il parallelo con Marino, che Marino è stato scaricato dal PD per qualche scontrino e per una visita non invitato a Filadelfia dal Papa, mentre per De Luca si parla di un governatore eletto sapendo già che sarebbe decaduto. Con il nello staff il marito di un giudice che ha deciso sul suo caso. No, non il marito di un giudice. Sì, il marito del giudice che chiama il suo capo della segreteria. Il marito del giudice è un dirigente della sanità che ha chiamato il capo della segreteria di De Luca. Non è che il marito del giudice fa parte dello staff. Quindi, di De Luca. Diciamo amico dell'amico. Vabbè. Insomma, parliamo di due vicende che almeno però, per come la vedo non so, io, Giuseppe, io il parallelo lo vedo, non so, tu Oscar che ne pensi? Mi sembrano due personaggi politici ben diversi, Marino e De Luca. Anche a me, però, se la vicenda su cui indaga la procura è fondata, è una vicenda più grave di quella di Marino. Più questo grave, sì, formalmente più grave. Molto più grave, perché se l'ipotesi è di essersi comprate la sentenza che dice puoi rimanere governatore, il mio giudizio è due punti a casa! Ecco, va bene. Proprio, e poi lui dirà naturalmente che lui non ne sa niente. No, ma è chiaro, ma è gravissimo. Per favore, se troppe volte questa... l'ambito da sospetti. Questa volta ci sono le intercettazioni, le indagini. Siamo i garantisti, come ovvio. Però l'accusa c'è ed è serissima. Però Oscar, ti faccio sentire Matteo Renzi ieri, premier a Milano per il dopo Expo. A proposito, prima di farmelo sentire, ricordiamo che lunedì scade, a proposito di scontrini, a Firenze, caro sindaco Nardella, scade il termine per l'accesso ai documenti per gli scontrini di Renzi. È vero. Che e no. Quindi ricordiamola, caro sindaco Nardella. C'è anche un consigliere di SEL che si è barricato per 24 ore nel comune di Firenze per fare questa... Anche lì, legalità, nessuno pretende di dire giusto o sbagliato, però l'accesso va garantito pubblico agli atti. Comunque, Renzi, che con Firenze c'entra appunto, sentite Renzi. Dopo che le cose vanno bene non puoi fare un sogno alla meno. Da questo punto di vista noi pensiamo che possa essere quell'area un'area in cui ospitare alcuni luoghi, tanti luoghi che diano la scintilla della ripartenza. La scintilla, insomma, il polo tecnologico al dopo Expo. Però tu lo sai che la scintilla è una testata storica, rivoluzionaria, Iskra. Per la storia della rivoluzione russa. Quindi vedi che Renzi poi qualche libro l'ha studiato. Sai che io un po' sono russo, sarebbe Iskra come pronuncia, ma va benissimo. Che citazione colta e dotta, caro Oscar. Qualche libro abbiamo letto. Non mi stupisco. Allora, salutiamo il rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone, buongiorno. Buongiorno a voi, professore. Gli ascoltatori. Perché qui bisogna capire se ci sarà una guerra tra campanili, come ha detto Renzi, da evitare oppure no. Insomma, siete contenti, siete coinvolti in questo piano di dopo Expo oppure no? Ma io credo ci siano tre velocissime considerazioni. La prima, il fatto che il governo decida di investire 150 milioni l'anno in ricerca scientifica e di assumere 1600 ricercatori, credo sia una bellissima notizia. Noi siamo tutti favorevoli al fatto che la ricerca sia un pezzo importante del paese. Anche il perché se il governo non si metteva i soldi, comuni e regioni non si sbloccavano, quindi viva, no? Sì, poi sono due operazioni ancora parallele. E devo dire, il fatto che questo aumento di capacità di ricerca venga fatto a Milano, a me fa molto piacere, perché comunque vuol dire attrarre persone da tutto il mondo che valorizzino l'ecosistema milanese. Secondo punto che io vedo con molto favore è il fatto di un governo che definisca gli obiettivi del paese nel medio periodo. È quello che chiediamo da tempo, il piano Italia 2040 è un piano che definisce alcune linee su cui l'Italia vuole essere leader, e questo mi sembra una presa di responsabilità del governo che non era così frequente negli anni scorsi. Diciamo, l'unico tema su cui c'è qualche discussione mi sembra sia quello delle modalità attuative. Se confrontiamo la scelta del governo italiano con quanto hanno fatto altri paesi come la Francia, la Germania, noi vicini, negli altri casi normalmente il governo dice noi vorremmo fare questo e poi apre un bando aperto, ma non solo a livello interregionale, a livello internazionale, in cui dire vediamo chi è il soggetto, l'insieme dei soggetti in assoluto più bravo per realizzare questo nostro sogno, con una giuria, tra virgolette, di esperti internazionali. In questo caso, diciamo, il governo ha fatto qualcosa in più, ha detto noi definiamo il sogno e abbiamo anche già identificato chi sono i soggetti migliori per realizzare. E sono a Genova, questo è il punto. No, devo dire che siano a Genova, a Napoli o a Torino mi sembra poco significativo. Noi continuiamo a dire che vogliamo imprese che da tutto il mondo vengano a Milano, non è che se viene un'impresa tedesca siamo felici, se viene un'università tedesca non lo siamo. Il tema vero è essere chiari e trasparenti su quali sono i criteri che sicuramente il governo ha adottato, ci mancherebbe altro, per ritenere che questi siano i soggetti migliori. Una volta che sia chiaro e trasparente, viva bene. Che tutti siamo felici. Quindi vi siete lasciati da questo primo incontro a Via Rovello, Milano, prima che parlasse poi Renzi, con l'idea di rivedervi e mettere a punto un lavoro congiunto per fare un master plan. E questo è lo stato delle cose, rettore? Allora, a Via Rovello io non c'ero, quindi devo dire, l'ho scoperto sul giornale che c'ero, ma ero da un'altra parte a far lezione, per cui era un po' difficile. Diciamo che sicuramente c'è l'obiettivo di verificare come all'interno di questo progetto si possano attivare competenze già presenti sul territorio. No, perché mi scusi, rettore, ma oggi il Corriere della Sera dice che il governatore della Lombardia Maroni ha dato incarico a lei e al rettore della statale di dare una valutazione appunto su questo piano, e per Maroni questa valutazione che voi darete sarà vincolante per la decisione della regione. Diciamo, è così? Questo il governatore l'ha annunciato all'incontro in statale che si è tenuto lunedì mattina. Lunedì. Allora, sicuramente devo dire non potremo esimerci dal dire quello che pensiamo sul piano e sul progetto specifico. Possiamo sottolineare anche un'altra cosa, perché siccome si era creata a Milano una condizione per cui Asso Lombarda ha premuto fin dall'inizio, perché il Politecnico di Milano, la Statale, insomma le eccellenze della ricerca delle università milanesi fossero tutte coinvolte in questo progetto della cittadella della ricerca scientifico-tecnologica, secondo lei, col tono di Renzi, che i giornali di oggi dicono conciliante di ieri, è sfumata l'ipotesi di uno scontro? C'è l'atmosfera per cooperare? Lei ci ha detto di sì, però intendiamoci, sto dicendo un'altra cosa. Avete avvertito nelle parole di Renzi ieri pomeriggio l'idea che ce n'è sì per l'IT di Genova, ma per le Bioscience, per il Politecnico di Milano, ci sarà tutto quello che è legittimo attendersi, visto che si era già lavorato per questo? Ma lei come l'ha capito? Io credo che la situazione attuale sia che noi siamo sicuri di avere le ciliegine sulla torta. Quello che mi sembra il governo abbia detto è che la torta se la devono fare i milanesi. Allora è una cosa che è assolutamente legittima, però io credo che se non si riesce ad avere la torta, che non è tanto il Politecnico ma la presenza forte della statale sul sito, le ciliegine siano un po' poco, nel senso che le ciliegine occupano tra il 5 e il 6%, 10% del sito. E mettere in un'area che abbiamo visitato tutti un laboratorio senza intorno un'attività universitaria, credo che rischierebbe di essere in the middle of nowhere. Quindi la sua idea è che il campus, insomma i 15.000 studenti del campus della statale, sono il pilastro fondamentale intorno a cui poi mettere, no? Un po' così? Io credo sì, quella è la torta, e sulla torta c'è bisogno a questo punto di capire che le istituzioni milanesi si giochino in prima persona. È una bella sfida per Milano. Comunque esatto, la premessa che lei ha fatto è che al di là poi di dove sarà il cervello, dove sarà il braccio operativo, le piace insomma il progetto generale, cioè quello di trasformare l'Expo in una grande cittadella della scienza, mettiamola così. Ma guardi, io credo che Milano abbia una dote, quella di essere sempre riuscita a attrarre persone da tutto il paese e dall'estero e integrarle in un progetto condiviso. Quindi credo che questa sia un'altra sfida dello stesso tipo. Le persone e le strutture di qualità a Milano hanno sempre spazio. Ovviamente è importante che lavoriamo tutti insieme su un progetto condiviso, ma credo che ci siano gli spazi per farlo. Gli spazi ci sono, ottimo. Caro Rettore, la ringraziamo allora per essere stato con noi. Giovanni Azzone, voglio ricordare, il Rettore del Politecnico di Milano. Grazie ovviamente. Un saluto a voi a tutti. Qui, grazie caro mille. Oscar, ci chiedono, ti chiedono di dire, ci spieghi in parole semplici, Oscar, perché se ne vanno i commissari della Spending Review? Retroscena, non lo so, ci sono retroscena o banalmente? È tutto così palese, nel senso che lo Stato è abile e rapido a prendere e invece lento e non assolutamente abile, ma disabile a rendere. E quindi non vuole tagliare la spesa perché è meno potere, perché è intermediazione della pubblica amministrazione, perché ci sono le elezioni, c'è sempre una buona ragione. Sempre una buona ragione. Vogliamo chiudere con gli Oscar allora? Li diamo in chiusura, caro Oscar. Io lo voglio dare a Michele Ainis, non è la prima volta, oggi sul Corriere della Sera racconta che in Italia quando c'è una soluzione c'è sempre un però, cioè agli italiani non va bene mai una sentenza. L'ultimo caso di Calogero Mannino, ma non solo, ricorda le maestre di Rignano, vi ricordate? Assolte, però hanno dovuto smettere di fare le maestre perché c'è sempre un però in Italia, non va mai bene neanche una sentenza pronunciata, c'è sempre quel sospetto, quell'idea. Dove naturalmente il però non è a Mannino, ma quelli che obiettano quelli che dicono sì, esatto, di cioè dire sì assolto, però, ma però esatto. Cosa? Cioè, allora va bene solo una condanna, cioè adeguiamoci che se c'è una sentenza ci adeguiamo alla sentenza. Questo Ainis scrive. Io invece lo do appunto al mio amico Alberto Mingardi, che spiega sulla Stampa il vero retroscena del perché vanno via i commissari, perché i tagli della spesa devono avere il fegato di dirli, proporli, sostenerli, approvare. I politici, finché chiamano i commissari tecnici, vuol dire che non ne vogliono sentire. Questo è il punto, perdono solo tempo. Se non vedrete un politico che vi dice io taglio qua e qua e ci metto la faccia, e allora vuol dire che i tagli di spesa non ci saranno. Però... E noi continueremo ad avere cronache che ci spiegano ogni giorno, gente, come stamattina, e no, dei soldi che utilizzo facciamo invece. Questo è il punto vero, tragico. Ecco. Senti Oscar, noi ci ritroviamo domani. Com'era se fosse acclarata la sentenza, l'accusa De Luca? Come ti hai detto tu? Sei San acclarato? Casa! Scherzo. Perché non sei d'accordo? Ma certo, se l'accusa è provata. È come dice il direttore Mattino a Barbano stamattina, dopo che passi l'intera vita a dire che tutte le indagini finora che ti hanno sfiorato e riguardato sono medaglie sul petto di un amministratore che decideva, questa volta è un caso diverso, perché sarebbero una onta di un amministratore che vuole la poltrona. Se De Luca vuole, noi siamo qui. Ci dobbiamo salutare, Oscar. A domani. A domani.